Focus Economia con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti, ci ritroviamo di nuovo qua a Focus Economia per raccontarvi la giornata economico-finanziaria. La possiamo fotografare in questa maniera, con due numeri, meno 0,2% e meno 3,3%. Che cosa indicano? Il primo, ne abbiamo parlato per tutta la giornata, il calo del prodotto interno lordo del secondo trimestre italiano, un dato che situazione di grande difficoltà economica per il nostro paese, è recessione perché siamo al secondo trimestre consecutivo appunto con il segno meno, per cui dal punto di vista tecnico è recessione italiana. L'altra cifra con la quale volevo fotografare la giornata di oggi è meno 3,3%, che è stato il punto minimo che ha toccato la borsa nel giro di un paio d'ore dopo la diffusione del dato sul prodotto interno lordo. Adesso il quadro è migliorato, abbiamo un ribasso di circa 2 punti, quindi anzi sensibilmente migliorato rispetto a come stavano andando le cose. Tra l'altro Milano trascinava con sé tutte le altre piazze europee, che adesso stanno migliorando sensibilmente. Abbiamo un meno 0,3%, meno 0,4% circa a Parigi e Francoforte, Londra un po' più pesante, meno 0,8%. Cambia direzione la seduta di Wall Street, che all'inizio pure era contagiata sia dalle notizie italiane, dalle preoccupazioni per la appunto condizione economica italiana, ma anche naturalmente dalla crisi internazionale. Oggi il nuovo focus è ritornato sull'Ucraina. Ebbene, Wall Street poi ha cambiato segno. Pare che stiano prendendo la volata i titoli del settore energetico. Adesso abbiamo più 0,3% sul Dow Jones, più 0,36% sul Nasdaq, Standard & Poor's più 0,30%. È chiaro che sarà quasi monotematica la nostra trasmissione di questa sera. Andremo ad analizzare questo dato che si è appunto che è stato diffuso questa mattina, era molto atteso, praticamente è stato l'unico argomento del quale anche gran parte della classe politica, economisti hanno parlato dall'inizio della settimana. Alla vigilia della diffusione del dato questa mattina il Sole 24 Ore pubblicava la lunga intervista del direttore Roberto Napoletano al ministro dell'economia Padoan, che poi lo ha fatto anche dopo la diffusione del dato, continua a promettere non sarà necessaria una manovra aggiuntiva in autunno per rimettere in sesto i conti. Il bonus da 80 euro rimane strutturale, oggi addirittura, lo avete sentito anche nel giornale radio, ha pregato i consumatori italiani a spendere questi soldi, ma insomma è stato un grande dibattito anche ieri a Focus Economia, lo ricorderete, che tra l'altro ha scatenato anche molti vostri messaggi. Con questi 80 euro ancora non possiamo dire, almeno distribuiti da maggio, giugno e luglio, possano servire a rilanciare i consumi. Al momento le famiglie, quelle che lo hanno ricevuto, hanno tamponato molte emergenze. Ma il tema è a questo punto come si ritorna alla crescita nel nostro paese e cosa significano anche questi segnali di borsa che abbiamo visto oggi. Perché in realtà un po' il dibattito sul dato migliore o peggiore delle attese ci sembra assolutamente stucchevole. Sappiamo che non ci potevamo aspettare niente di meglio dall'economia italiana. Il problema però è stata proprio la risposta molto importante che la borsa ha avuto. Quando c'è stato questo calo di 3,5 punti questa mattina, c'è stata grande agitazione fra gli operatori. E molti hanno anche riletto un po' le dichiarazioni di questa mattina, il pezzo di questa mattina sempre sul Sole 24 Ore di Walter Riolfi, che ha esaminato un po' l'atteggiamento che hanno a questo punto i grandi investitori internazionali. Ha citato il caso di Goldman Sachs, che ha assunto una posizione un po' neutrale a questo punto nei confronti dell'Italia: non si vende ma non si compra più il debito pubblico italiano. Cosa anticipa questo atteggiamento? Anticipa che se l'Italia non riprende il sentiero della crescita potremmo cominciare ad essere di nuovo molto ben scaricati a partire dall'autunno, quindi riprenderà a decollare lo spread, riprenderà a scendere molto vistosamente ancora la borsa, ma insomma cercheremo di capirlo più tardi con Moria Longo del Sole 24 Ore. Questi un po' i temi che approfondiremo. Naturalmente, se volete commentarli con noi, avete la consueta modalità, che è quella di scriverci dei messaggi al 349-238-6666. In quanti ci state scrivendo già? Ancora prima che la trasmissione iniziasse, in molti commenti stavano arrivando sulla questione del PIL. Molta responsabilità attribuita a questo governo che non riesce a far cambiare la rotta all'economia del paese. Sei tu che hai imboscato gli 80 euro, mi dice un ascoltatore. Guardi, io sono fortunata, avevo un reddito superiore, non li ho ricevuti, per cui adesso andiamo alle altre notizie in breve. per Emanuele che si lamenta che deglutisco continuamente. Oggi ho un mal di gola bestiale, Emanuele, per cui purtroppo dovete avere un po' di pazienza. Sono in onda stamattina e faccio un po' fatica a sopportare forse questo ritmo di lavoro. La gola ne sta risentendo. Detto questo, andiamo alle notizie in breve. Allora, materie prime. Bene, sì, è chiaro che con questi chiari di luna sui mercati finanziari l'oro naturalmente riprende a far parlare di sé e sta riprendendo a salire. Oggi viaggiava a 1.307 dollari l'oncia, in salita di quasi 2 punti percentuali rispetto alle chiusure di ieri. Anche il petrolio è leggermente salito in apertura a New York a 97,8 dollari al barile. Stati Uniti, oggi tra l'altro parlando di Wall Street, con questo recupero in questo momento del mercato americano trainato soprattutto, oggi indicano gli operatori dal comparto energetico, c'è da segnalare una notizia che riguarda la tecnologia, perché Samsung ed Apple hanno messo fine a tutti i loro contenziosi al di fuori degli Stati Uniti nella cosiddetta guerra dei brevetti. Lo hanno proprio annunciato oggi le due compagnie in un comunicato congiunto. Allora andiamo invece all'economia europea. Oggi delle cattive notizie sono arrivate anche dalla Germania, anche se poi il mercato non ha penalizzato così tanto il destino tedesco. Tutti si sono concentrati sull'Italia. Stamattina c'è stata una brusca frenata per gli ordinativi alle fabbriche in Germania, per l'appunto. Il dato di giugno, mese su mese, segnala un calo del 3,2%, mentre le stime degli analisti vedevano in media addirittura un rialzo dello 0,9%, quindi pensate che forbice clamorosa, ma non certo penalizzata dal mercato come è accaduto in Italia. Vabbè, questo ormai ci siamo abituati. Sono i diversi scenari di crisi nel mondo a pesare sugli ordinativi all'industria tedesca, che appunto a giugno hanno segnato questo brusco calo, spiazzando ogni previsione. Il crollo delle richieste riguarda soprattutto paesi dell'eurozona, quindi un po' tutta l'economia domestica che soffre a questo punto tutta insieme. Su tutto, gli sviluppi e i rischi geopolitici potrebbero aver portato ad una certa cautela sugli ordinativi, ha detto il Ministero dell'Economia tedesco, cioè da attendersi che la congiuntura industriale nei prossimi mesi si sviluppi a questo punto con moderazione. Però il governo tedesco dice di non vedere alcuna ragione per cambiare politica economica, e peraltro rispondendo in questo modo al nuovo appello del presidente francese Hollande, che ha chiesto più sostegno per la crescita. Lo ha detto oggi in una conferenza stampa la portavoce di Angela Merkel, Christian Wirth. Le dichiarazioni molto generiche provenienti da Parigi non forniscono alcuna ragione per una qualsiasi correzione della politica economica tedesca. Rapidamente vi ricordo i dati sul PIL italiano: nel secondo trimestre meno 0,2%, nel primo il calo era dello 0,1%, su base annua abbiamo meno 0,3%. L'impennata dello spread ha portato il divario tra Italia e Germania sul titolo decennale fino a 170 punti, ma oggi abbiamo avuto anche il dato della produzione industriale di giugno. Poi cercheremo di capire come questi due dati, uno positivo e uno negativo, si combinano, perché la produzione industriale a giugno è tornata a salire, in rialzo dello 0,9% rispetto a maggio, quando però era risultata in netto calo. Quello di giugno è l'aumento mensile più forte da gennaio. Il dato è positivo anche su base annua, più 0,4%. Il settore dei beni di consumo a giugno registra un rialzo del 2,5% su base mensile. Anche in questo caso abbiamo il dato migliore da oltre un anno. Tra le altre cose che sono successe oggi a Roma, c'è stato il via libera dal Senato alla soppressione del CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. L'Assemblea ha approvato infatti l'articolo 27 del provvedimento sulle riforme, che ne prevede l'abolizione. Andiamo all'altro caso che ancora continua a rendere incandescente l'estate finanziaria italiana. Allora, arriveremo o no alla firma di questo accordo, alla firma conclusiva di questo accordo fra Alitalia ed Etihad? L'amministratore delegato di Poste, Francesco Caio, potrebbe incontrare il CEO, l'amministratore delegato di Etihad, James Hogan, prima che lo stesso Hogan incontri gli altri soci. È stato fatto sapere questo da fonti vicine al dossier Alitalia. Questo incontro potrebbe avvenire addirittura in serata. Per peraltro ci hanno anche un po' scherzato i giornali in questi giorni. Il signor Hogan è arrivato in Italia proprio l'altro giorno, quando cominciava a serpeggiare la protesta, il cosiddetto sciopero bianco dei dipendenti appunto di Alitalia, che gestiscono lo smistamento dei bagagli. La situazione a Fiumicino oggi sembra essere migliorata, però i disagi per i passeggeri potrebbero non essere finiti. Fra gli esubili di Alitalia che hanno fatto scattare questa clamorosa forma di protesta, tra l'altro ribattezzata anche la valigia bianca, 1500 riguardano il personale di terra, fra questi circa 300 addetti al carico e scarico bagagli. Appunto, applicando alla lettera il regolamento, stanno rallentando le operazioni. Pur sottolineando la bontà dell'operazione con Etihad, Andrea Cavola, coordinatore nazionale dell'USB, spiega a Valeria De Rosia, quindi un sindacato, le ragioni di questi lavoratori. Le persone, non sapendo chi viene licenziato, ha paura. Sono state aperte delle procedure, le procedure non contengono ancora i nominativi ma contengono i numeri. Chiaro che le persone, quando hanno letto sui tabulati improvvisamente che tra un mese potrebbero essere in mezzo a una strada, sono prese dal panico. Noi questo durante la trattativa l'abbiamo detto, che attenzione, che se noi non troviamo una soluzione per gli esuberi, una soluzione reale, concreta, il rischio che la situazione diventi ingovernabile è altissimo. Questi sono settori che sono sempre stati in sottorganico e sono andati avanti proprio grazie all'estrema professionalità e disponibilità di tutti i lavoratori. È chiaro che un lavoratore che vede il proprio posto in bilico, minacciato o addirittura certo del licenziamento, dice: io non ti do più questa disponibilità a lavorare 10-11 ore in turni massacranti a 40 gradi sotto il sole. Applico quello che dice il regolamento e basta niente per inceppare tutto il meccanismo. Cavola, che le dobbiamo dire? Noi siamo certamente dalla parte dei lavoratori, comprendiamo perfettamente lo stato di tensione, perché dopo mesi di trattative e l'assoluta incertezza sull'esito anche di questo accordo, certo che però far scoppiare questa protesta proprio in questi giorni, e protesta della quale poi sono vittime anche viaggiatori che arrivano da tutto il mondo, che devono andare in vacanza, poi secondo me alla fine qua si ripercuoterà tutto quanto su Alitalia, che sarà costretta anche un po' a pagare i danni di quello che sta succedendo. Perché se una famiglia va in vacanza, e qua sono decine di migliaia, e non arriva il bagaglio, poi su qualcuno queste famiglie si rivalgono. Io vi anticipo già che domani di questo argomento parleremo alle 11 a Cuore Denari. Sentiamo però anche l'opinione di Valeria Mascoli, segretario regionale del Lazio della FILT CGL, sempre al microfono di Valeria De Rosa. I disagi soprattutto prodotti nella parte del carico scarico bagagli, insomma, via dicendo, ci vorrà un paio di giorni per riportare il tutto, insomma, alla normalità, anche per smaltire il lavoro che si è accumulato, però oggi non ci sono le tensioni, insomma, che c'erano ieri e che hanno rallentato così tanto l'attività. Il numero degli esuberi che viene individuato sul personale di terra si aggira intorno alle 1600 unità. Per circa 600 è stata prevista una possibile ricollocazione sia all'interno del perimetro aziendale, piuttosto che invece presso soggetti terzi che dovrebbero acquisire il personale. Per altri invece al momento non c'è alcun tipo di soluzione, insomma, al momento percorribile. Per handling ovviamente non intendiamo solamente carico e scarico bagagli, insomma, un po' tutte le attività che ci sono sul hub di Fiumicino. La procedura vera e propria di mobilità attraverso la comunicazione da parte dell'Alitalia di messa in mobilità dei lavoratori comincerà a partire dal 15 settembre. Ci si poteva aspettare questo genere di protesta, anche se è improprio chiamarla protesta, perché è stata semplicemente un'applicazione pedissequa del contratto? Diciamo che c'è stato quello e c'è stato anche, insomma, dei momenti di aggregazione dei lavoratori. L'azienda sta cominciando a chiamare le persone una a una per chiedergli di uscire. Questo ha prodotto un'altissima tensione tra il personale. Allora, Expo 2015 e Italfer, gruppo Ferrovie dello Stato, hanno siglato quest'oggi l'accordo per la direzione dei lavori dell'Esposizione Universale a Milano, naturalmente, e l'accordo è stato anche firmato a Milano. Il testo è stato sottoscritto dall'amministratore delegato di Ferrovie Michele Mario Elia, dall'amministratore delegato di Italfer Matteo Triglia e dal commissario unico amministratore delegato di Expo 2015 Giuseppe Sala. Quest'ultimo ha precisato che il valore del contratto è di 7 milioni e mezzo di euro e non costerà una lira in più di quanto previsto quando i soggetti erano due, Metropolitana Milanese e Infrastrutture Lombarde. Ebbene sì, è tempo di andare al primo, che poi sarà quasi l'unico tema di oggi, Italia in recessione, il nostro primo approfondimento. prodotto interno lordo italiano nel secondo trimestre di quest'anno è ancora negativo, scende dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, quando già aveva segnato un calo dello 0,1%. Su base annua il ribasso è dello 0,3% e quindi l'Italia entra in recessione tecnica, che è quel fenomeno che si verifica quando abbiamo due trimestri consecutivi di crescita negativa. L'ultimo dato positivo per quello che riguarda il nostro paese risale al quarto trimestre dello scorso anno, quando era stata interrotta una striscia di segni meno che era stata lunga per più di 2 anni. Il livello del PIL nel secondo trimestre del 2014 risulta essere il più basso dal secondo trimestre del 2000, ovvero da 14 anni a questa parte. Quali sono le spinte verso il basso per la crescita italiana? E il caso Italia è anche abbastanza probabile che sarà discusso domani nella consueta riunione mensile della Banca Centrale Europea, dalla quale però non ci aspettiamo misure straordinarie né dettagli sul prossimo quantitative easing che la BCE intende intraprendere per anche sostenere l'economia dell'Eurozona. Ma insomma, facciamo un commento generale su tutto questo con il nostro ospite di questa sera, Luca Mezzomo, economista di Banca Intesa San Paolo. Buonasera. Buonasera. Allora, tra l'altro, Mezzomo, io non so se lei si è appassionato al dibattito sul dato migliore delle attese e dato peggiore delle attese, perché qualcuno si è proprio molto stupito di questo dato negativo, per qualcuno invece era scontato, a me è sembrato un pochino stucchevole perché non è che di miracoli ce ne aspettassimo. Lei da che parte sta? Se lo aspettava così o qualcosa di meglio? No, ci aspettavamo qualcosa di meglio. La nostra previsione era per un dato invariato rispetto al primo trimestre. Qualche sorpresa c'è, perché comunque si sta verificando uno scollamento fra le indicazioni che arrivano dalle indagini di fiducia e indagini congiunturali, che hanno dipinto negli ultimi mesi un quadro decisamente migliore di quello che poi si è realizzato a livello di indici reali. E quello che ci aspettava è che il calo della produzione industriale del secondo trimestre, che era già più o meno noto al di là dell'entità del rimbalzo che si è verificato poi a giugno, che è stato confermato questa mattina da Istat, fosse in parte compensato da un contributo positivo, sebbene non grande, dei servizi, sempre sulla base delle indicazioni che arrivavano dalle indagini di fiducia. E invece questo non si è verificato, perché Istat ci ha detto oggi che anche il settore dei servizi, oltre all'industria e all'agricoltura, hanno contribuito negativamente. Com'è possibile che siano così menzogniere le rilevazioni sulla fiducia italiana, dottor Mezzomo? Perché se c'è questo scollamento, come lei ci dice, qua o qualcuno mente o vengono fatte male queste statistiche, queste indagini, qual è il problema? Ma io penso che sia un problema derivante dalla durata e dalla profondità della recessione. Forse avendo alle spalle un periodo così lungo e così pesante di contrazione, anche dei piccoli segnali di stabilizzazione vengono percepiti come un miglioramento e risultano come tali nelle indagini. Quindi forse è un problema di adattamento delle indagini di fiducia al mutamento della realtà economica italiana degli ultimi anni. Per far capire ai nostri ascoltatori quali settori stanno andando particolarmente male, quali tengono, invece, dottor Mezzomo, spezzettiamo un po' questo dato che è arrivato adesso relativo al secondo trimestre dell'anno. Intanto, appunto, secondo quello che percepisce lei, quali sono i fattori che hanno provocato un ribasso così, a questo punto possiamo definirlo violento? La percentuale, mi rendo conto che è poca cosa, però insomma questo paese sta lì fermo, bloccato e non cresce. Quali sono gli elementi di trascinamento verso il basso? Mi pare che la novità negativa del secondo trimestre è stato il contributo negativo delle esportazioni nette. Venivamo da un periodo di alcuni trimestri in cui tutto sommato proprio il settore estero teneva un po' a galla l'economia con dei contributi positivi. Invece nel secondo trimestre ci è stato detto che proprio le esportazioni nette hanno contribuito negativamente, a fronte invece di un contributo nullo della domanda interna al lordo delle scorte. Quindi paradossalmente non è stata questa volta tanto la debolezza della domanda interna quanto piuttosto il bilancio delle tra esportazioni e importazioni a spingere verso il basso il PIL. Quali paesi non vogliono più il Made in Italy? Ma io penso che più che una questione di paesi sia stata una dinamica generale che si è verificata negli ultimi mesi di rallentamento, che sta emergendo purtroppo anche in altri paesi dell'Eurozona, perché giusto stamattina sono usciti dei dati molto negativi degli ordinativi industriali tedeschi, in Germania, sì. Da cui emerge effettivamente una grande frenata degli ordinativi di beni capitali provenienti proprio dall'Eurozona. Quindi c'è qualche, in questo momento, questo è un periodo di, di rallentamento dell'attività dell'Eurozona, dove probabilmente i principali responsabili oltre all'Italia sono anche i francesi, perché anche i dati francesi negli ultimi mesi sono stati molto deludenti. E infatti c'è anche questa polemica a distanza fra Hollande e la Merkel proprio su questi argomenti. Senta, stamattina però, contestualmente al dato sul PIL del terzo trimestre, è stato diffuso anche il dato sulla produzione industriale di giugno, che invece torna a salire. C'è questo più 0,9% rispetto a maggio, quando era risultata comunque in netto calo, pertanto qua qualche volta qualcuno dice si tratta di poco più che rimbalzi tecnici, però è l'aumento mensile più forte da gennaio. Come si combinano questi due dati? Com'è possibile che in questo trimestre negativo ci sia un mese, quello di giugno, in cui invece la produzione industriale marcia molto bene? Allora, si spiega per quello che diceva lei, c'è stata un'oscillazione molto forte tra maggio e giugno, legata probabilmente ad effetti di calendario. In maggio c'è stato il ponte del primo maggio, che non viene corretto interamente dalla regionalizzazione, quindi il calo di maggio è stato sicuramente esagerato per larga parte proprio da questi effetti di calendario. In giugno abbiamo avuto poi un rimbalzo per la restituzione di quel calo anomalo. Al di là di quello, direi che però anche a livello settoriale ci sono delle dinamiche interessanti, perché se andiamo a contare i settori che in questo momento su base tendenziale stanno crescendo, in realtà la maggioranza dei settori ha già una crescita tendenziale positiva rispetto al 2013, siamo 11 su 15 escludendo l'energia, che ha delle problematiche tutte sue. Il problema è che l'intensità della contrazione dei quattro settori che stanno calando è così forte che va per il momento a compensare quasi del tutto l'incremento che si verifica sugli altri. Mezzomo, l'aveva letta questa mattina l'intervista a Padoan sul Sole 24 Ore? Sì, l'avevo letta, è un periodo in cui non si possono mancare questi appuntamenti. Tra l'altro nel pomeriggio, poi in un'intervista al TG2, Padoan ha ribadito i concetti espressi nell'intervista di questa mattina a Roberto Napoletano. Chiaramente dopo la diffusione del PIL del terzo trimestre è stato letteralmente inseguito dai giornalisti per un ulteriore commento su questa statistica. Sentiamo che cosa ha detto. È un dato negativo, ma ci sono anche aspetti positivi. La produzione industriale sta andando molto meglio, i consumi continuano sia pur lentamente a crescere. È il frutto di una crisi internazionale, ma soprattutto europea, che non è finita, ma anche il risultato del peso di impedimenti strutturali e di un debito elevato che l'Italia si porta appresso da tempo. Se ne esce continuando con la strategia del governo, riforme strutturali, semplificazioni, aumento della competitività. Dietro l'angolo non c'è una manovra, il governo osserva attentamente l'andamento della finanza pubblica e con un controllo attento delle spese la manovra non c'è. Noi in Europa andiamo con i compiti fatti, e cioè con le riforme introdotte e attuate. Solo a queste condizioni noi potremo avere in Europa una voce più importante, ed è quello che stiamo ottenendo. La convincono le parole di Pado a Mezzomo? Dunque, per certi aspetti mi confortano, perché adesso la domanda che tanti stanno ponendo è quale sarà la risposta poi dell'esecutivo a questi dati deludenti dell'economia, che presumo non si aspettassero assolutamente, viste anche quelle che erano le previsioni per il 2014 di qualche mese fa. Ora, inseguire stimoli di brevissimo termine alla domanda in queste condizioni, in cui tra l'altro l'Italia si trova a combattere contro livelli di debito molto elevati, sarebbe pericoloso e forse anche controproducente. Probabilmente la risposta migliore. Quindi, in sostanza, lei dice che se si deve fare qualcosa non è una nuova misura di stimolo necessaria a rigalvanizzare questo dato di stimolo, diciamo, alla spesa degli italiani. Continuare ad agire sul lato dell'offerta, accelerando un processo che in realtà è molto più lento di quello che è stato prospettato, e colmando poi anche i deficit di implementazione che sono emersi anche nell'attuazione delle misure di riforma degli anni precedenti, come anche il Sole 24 Ore appunto periodicamente ci ricorda. Ecco, la manovra straordinaria di autunno, secondo lei, visto che veramente lui si ostina ancora a ribadire che non sarà necessaria? Allora, in effetti anche dai nostri calcoli sembrerebbe che, nonostante la grande delusione del PIL, si rimarrebbe vicini al 3%, il che significa che, avendo il governo sempre qualche spazio di manovra per sistemare i conti prima della fine dell'anno, potrebbe effettivamente essere possibile rimanere sotto il 3% senza manovre aggiuntive nel 2014. Domani c'è la BCE, Mezzomo. Secondo lei, sul tavolo dei governatori delle banche centrali, appunto, dei paesi dell'Eurozona, verrà presentato questo dossier Italia? Penso che il caso italiano sia in questo momento molto considerato molto preoccupante, perché l'Italia effettivamente sta perdendo il treno della ripresa, diversamente da altri paesi della periferia. Penso per esempio alla Spagna, che ha avuto una sequenza di trimestri positivi, terzo, quarto 2013 e primo 2014, e che probabilmente rimarrà in crescita anche nel secondo 2014. Quindi c'è un problema Italia. Mi pare però che l'approccio che risulta ancora prevalente è quello di spingere l'Italia a fare riforme strutturali. Quindi non mi pare che la risposta che sarà trovata sarà quella di incentivare poi misure di stimolo della domanda. Certo che comunque il semestre italiano di presidenza europea è davvero tutto in salita, su questo possiamo essere tutti d'accordo. Ah sì sì, assolutamente. Mezzomo, la ringrazio per essere... No, aspetti, ho un'altra domanda perché... e poi la lascio, perché mi stavo leggendo il commento che lei ha rilasciato oggi, appunto lei ha la responsabilità e tutto l'ambito macroeconomico dell'ufficio studi di Banca Intesa San Paolo, guardando un po' in avanti, adesso a prescindere dalle dichiarazioni di Padoan su manovre correttive, aggiuntive da fare in autunno o meno, guardando invece allo scenario economico internazionale e a quale livello ci può aiutare a riprendere appunto quota in termini economici, se addirittura anche l'esportazione adesso cominciano a farci soffrire, dato che erano le aziende che esportano molto che continuavano appunto a sostenere l'economia italiana. Lei vedo che ha scritto: un modesto beneficio, e quindi alla ripresa, potrebbe derivare dal deprezzamento del cambio, in parte compensato dall'aggravarsi di diversi focolai internazionali di crisi, perché tra l'altro questi non li abbiamo commentati, ma non è detto che poi nei prossimi mesi si facciano sentire e pesare. Sì, in effetti è un quadro molto complesso quello attuale. Da un senso positivo stanno agendo il cambio, perché se il deprezzamento si consolidasse nei prossimi mesi qualche effetto sul PIL si potrebbe anche vedere. C'è poi la crescita americana, perché i dati americani sono molto buoni in questo periodo, e direi che stiamo entrando probabilmente in un periodo di revisione a rialzo delle stime per gli Stati Uniti nel secondo semestre. Ci aspettiamo attualmente una crescita mediamente sopra il 3% negli Stati Uniti, e questo avrà delle ripercussioni sul flusso di importazioni americane. Certo. Ecco, di contro poi c'è però questa situazione internazionale molto complessa, con diversi focolai di crisi che singolarmente non sono eccezionalmente rilevanti per l'economia italiana, però sommati assieme possono avere un impatto, e poi possono avere un impatto negativo ulteriore sul clima di fiducia. Evidentemente così. Allora, la saluto con due sms di due ascoltatori. Un ascoltatore che opera nel settore alimentare ci racconta che non è che i consumi non crescono, è che era impossibile che si abbassassero più di così, perché dice: nel mio settore alimentare sono ai minimi da 30 anni. Domanda della casalinga, ci scrive un ascoltatore che magari è un'ascoltatrice, ma insomma, visto che parlate sempre di queste mitiche riforme strutturali che andrebbero fatte per salvare questo paese, quali sono le prime? Sburocratizzare completamente il paese per sostenere le aziende a fare appunto impresa, Mezzomo? Ma non è una singola misura, venendo da una storia ormai pluridecennale di trascuratezza su quel fronte, sono diversi gli interventi che il Paese deve fare. Allora, sulle pensioni non bisogna intervenire, perché credo che la Fornero, pur contestatissima, abbia messo in sicurezza il sistema previdenziale. Infatti lì mi sembra uno dei capitoli che possiamo considerare più o meno chiusi. Sì. C'è aperto ancora il capitolo del mercato del lavoro, e qui il governo ha messo in campo un primo intervento, esatto. E poi aspettiamo adesso Jobs Act, seconda fase. Esatto, sì. La seconda fase è l'avvio del dibattito sulla legge delega. Poi c'è un capitolo che emerge sempre come critico per l'Italia nei confronti internazionali, è quello della giustizia civile. Qualche progresso si sta cominciando a osservare anche nelle statistiche, però i passi da fare rimangono ancora tanti. Il gap rispetto ai concorrenti internazionali è ancora notevole, e a questo passo saranno necessari diversi anni prima di colmarlo. E poi c'è anche tutto il capitolo, dobbiamo vedere come va a finire la saga tra Renzi e Cottarelli, ma questo è il tema di un'altra puntata. Grazie Mezzomo, buona serata e buone vacanze. Buona serata anche a voi. Siamo in ritardissimo, pubblicità e poi la borsa. Dopo il lungo esame sul PIL del terzo trimestre con Luca Mezzomo, economista responsabile dell'area macro di Banca Intesa San Paolo, dell'ufficio studi di Banca Intesa San Paolo, adesso naturalmente andiamo a raccontarvi come si è riflesso questo dato sull'andamento della giornata di borsa. con Ceo Condina di Radio Cor, Il Sole 24 Ore. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Non ti sei annoiato oggi, perché di cose da scrivere ne abbiamo avute un po'. Assolutamente. Mm. Allora, questo è il bilancio finale di questa giornata, meno 2,70%, così tanto per gradire, per Piazza Affari, ed è andata pure bene, perché ad un certo punto della mattinata abbiamo toccato quasi 3,5 punti di ribasso. Meno 0,6% a Parigi, meno 0,65% a Francoforte, Londra meno 0,71%, ha girato in positivo Wall Street, lo raccontavamo prima, stanno correndo i titoli energetici, ma insomma Wall Street rimbalza un po'. Andiamo a Milano, meno 2,70%, e allora naturalmente, come da copione, le vendite si sono accanite particolarmente sulle banche. Ceo, cosa ti hanno detto oggi gli operatori che hanno analizzato questa seduta? Ma guarda, come giustamente dici tu, diciamo la gelata del PIL con il ritorno alla recessione dal punto di vista tecnico ha portato a una nuova diffidenza sull'economia italiana e poi in generale anche sui periferici. Da qui un allargamento dello spread tra BTP e Bund oltre 170 punti base, una contemporanea ondata di vendite sui principali titoli bancari, a partire poi dalle popolari. Come vediamo, la Popolare di Milano ha perso l'8,3%, B per il 6,6%, ma anche il Monte dei Paschi ha perso quasi il 6%. Comunque, diciamo, l'osservazione principale degli operatori è che in giornate simili è naturale che le vendite si concentrino soprattutto sui titoli ciclici, cioè quelli più legati all'economia. Mm. Un altro titolo ciclico è Fiat, per esempio. Mm. Tra l'altro è chiaro che poi quando le banche perdono così tanto, essendo un settore, quello bancario, molto rappresentato sul paniere, si trascina a ribasso in maniera molto violenta tutto il listino. Abbiamo fatto anche questa considerazione all'inizio di trasmissione, poi magari con il prossimo ospite la commentiamo ulteriormente. Il dato invece sugli ordinativi industriali in Germania, molto negativo, non ha assolutamente pesato sul listino, come se là appunto l'economia reale non fosse per niente legata appunto all'andamento anche della borsa. Qua invece abbiamo avuto una ripercussione estremamente pesante. Allora, le banche peggiori, come diceva Ceo Condina, Popolare di Milano meno 8,29%, Popolare dell'Emilia Romagna meno 6,60%, GTEC, la ex Lottomatica, meno 6,55%, Monte dei Paschi meno 5,94%, Fiat meno 5,55%. Tra l'altro sono certa che in realtà oggi molti gestori stanno vedendo delle ottime occasioni di acquisto e domani avremo dei rimbalzi senz'altro. Andiamo però ai titoli e alle società che si sono comportate bene. C'è Pirelli, più 1,36%. Beh, Pirelli arrivava dai dati diffusi ieri, dati semestrali che hanno visto, diciamo, dei dati sostanzialmente in linea con quelle che erano le previsioni del mercato, e di questi tempi non è poco visto quello che sta succedendo, e poi anche una conferma dei target per quanto che si era già fissata la società per il 2014. Più nel dettaglio, nel primo semestre sono stati realizzati utili pari a 192 milioni, in crescita del 28,5%, tanto che adesso tra gli analisti c'è chi addirittura ha rivisto a rialzo le stime del 2014 per la società, di cui il rialzo di borsa è stata la migliore del FTSE MIB con più 1,36%. Tra i titoli che hanno ben performato segnalerei altre due categorie: una è quella dei titoli del lusso, che già ieri avevano viaggiato in controtendenza. Ferragamo per esempio ha guadagnato lo 0,9%, Tozzi è rimasto sulla parità, che oggi insomma è tutto grasso che cola, e poi ci sono anche i titoli più esposti sul dollaro, che in queste sedute sta recuperando. Sta recuperando parecchio sull'euro. Oggi era 1,33,5. Abbiamo World Duty Free che oggi ha guadagnato l'1,2%, anche se ricordiamo che da fine luglio aveva perso quasi l'11%. Poi c'è anche Tenaris che ha perso solo tra virgolette lo 0,8%. Anche ieri Tenaris era tra i titoli che avevano retto maggiormente l'urto delle vendite. Tra l'altro, tra i titoli bancari, forse quello che ha fatto meno peggio, adesso neanche lo ritrovo, è stato Unicredit, che beneficia ancora un po' dei conti diffusi ieri. Sì, ha perso il 3,7, insomma. Però sì, diciamo che c'è ancora un po' quell'effetto. Mm. Cioè. Tornando a Fiat per un attimo, a prescindere dalla considerazione di titolo ciclico, CEO, come sta procedendo la questione dell'esercizio dei diritti di recesso per quegli azionisti che non appoggiano l'integrazione con Chrysler? Ma diciamo che non ci sono molte novità, e di certo tra gli operatori c'è, a vedere la performance del titolo, sempre maggiore preoccupazione per quelle che sono le prospettive della situazione, con sappiamo che, come è noto, Fiat ha stabilito un limite massimo di 500 milioni da spendere, diciamo, per liquidare i possibili recessi, il timore che si superi questo tetto e che quindi la fusione con la controllata americana venga messa a serio rischio. Peraltro tra gli operatori, per spiegare il nuovo crollo di Fiat, si segnalano oggi anche i possibili impatti negativi dell'inchiesta in Cina, in cui anche i marchi di Fiat, il marchio Chrysler in particolare, potrebbe essere riconosciuta colpevole di comportamento monopolistico. Ecco qua. Intanto ho ingaggiato una mia personale battaglia con un ascoltatore che mi scrive: vediamo proprio domani la nostra espertona trader che dà per sicuri i rimbalzi. Secondo me domani qualcosa di tecnico ci sarà. Dopodiché si riprenderà magari proprio in scia l'andamento dell'economia, un trend di ribasso, ma insomma io non sono una trader, poi c'è un esperto più preparato di me che ci potrà dare la sua sensazione su questo. Ma secondo te domani ma proprio quello tecnico dico? Ma domani parla Draghi, quindi saremo tutti appesi lì fino alle 14:30. Sì, di solito Draghi diciamo che sa soppesare bene le parole, però io non mi sento di fare previsioni, altrimenti non saremo qua a parlarne. Niente, purtroppo, mannaggia, mi sono esposta e quindi domani a fare trading ne pagherò le conseguenze. Qualche ultimo commento su Telecom Italia. Ieri ne abbiamo parlato molto per tutta la questione, che ha visto insieme notizie che arrivavano dalla Spagna, poi dal Brasile e dalla Francia. Oggi per Telecom in realtà è andata neanche tanto male, perché ha perso solo il 2,61% e si ripropone anche proprio per Telecom la questione della difesa di un campione nazionale, una società di interesse nazionale. Allarme che ieri era stato lanciato dal presidente della Cassa Depositi e Prestiti, Bassanini. Oggi che notizie abbiamo? Oggi abbiamo la semestrale. Molto in sintesi, diciamo, un calo generalizzato dei principali indici di bilancio: ricavi meno 11%, EBITDA meno 7%, non è una grossa novità questa. C'è anche tuttavia il calo dell'indebitamento netto di 1,4 miliardi, adesso è sceso a 27,3 miliardi. Questa zavorrona che Telecom ha praticamente da sempre e quindi pian piano scende. Altri casi da segnalare, CEO? Non mi sembra. Benissimo, allora ti aspettiamo domani pomeriggio, oppure non ci sarai? Non ci sarò domani, ci sarà la Eleonora Micheli. Grazie a CEO Condina di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buona serata. E qua niente, adesso ormai mi sono lasciata trasportare dall'entusiasmo, mica tanto per la giornata di borsa, ma quantomeno dalla prospettiva di domani. Adesso andiamo a sentire i suggerimenti per chi è in viaggio, ma vi faccio già salutare dal prossimo ospite, Moria Longo del Sole 24 Ore. Buongiorno a tutti. Continuiamo a parlare di andamento di mercati finanziari, anche per capire se il calo di oggi, particolarmente pronunciato di Milano, sia anche parzialmente legato ad altri fattori e non solo a questo tracollo del PIL. A tra poco. Allora, abbiamo ospitato Moria Longo proprio ieri mattina a Cuore Denari. Avevamo, ti ricorderai, Moria, un consulente finanziario che ci ha detto: ma insomma, quando ci sono ribassi di borsa, voi giornalisti li enfatizzate sempre molto, come è anche oggi, è giusto che si faccia, perché comunque il ribasso è molto profondo. Quando magari le tendenze del mercato sono positive, rialziste a lungo, voi neanche ce le fate notare. Detto questo, il tema che vogliamo affrontare adesso è che in realtà da qualche settimana la borsa ha ripreso a scendere dopo aver testato massimi su massimi, e questo ha riguardato soprattutto Wall Street e la Germania. Adesso invece la tendenza è negativa e quindi la raccontiamo, basti osservare appunto alcuni grafici, e questa tendenza è in rosso. Si va in vacanza, magari qualche operatore ha preferito vendere non a maggio, quando si dice sell in May and go away, magari l'ha fatto successivamente per andare appunto in vacanza tranquillo. C'è però anche dell'altro, diciamo che grandi gestori internazionali in questo momento stanno strategicamente prendendo delle decisioni e osservandoci molto più attentamente. Lo fa Goldman Sachs, che ha fatto capire che in questo momento l'atteggiamento nei confronti dell'Italia è neutrale. In sostanza ci hanno detto: siete sotto esame e qua, se la crescita non riparte, chissà che cosa non avranno pensato oggi a New York, se qua la crescita non riparte, noi a questo punto ripartiremo sì, ma con le vendite. Ieri Goldman Sachs ha detto questo, ma è da tempo che si dice questa cosa. Gli investitori negli ultimi mesi hanno comprato tantissimo l'Europa e hanno comprato tantissimo i paesi periferici, sia sul fronte azionario sia su quello dei titoli di Stato. Il motivo era che scommettevano un po' sulle mosse di Draghi, un po' sul fatto che ci fosse appunto la ripresa economica un po' in tutto il continente, con alti e bassi, con difficoltà che ovviamente tutti conoscono, però comunque si scontava una certa ripresa, un certo giro di boa, diciamo così. E su questa scommessa hanno investito tanto, anche perché ricordiamo che di liquidità, di soldi sul mercato, le banche centrali ne hanno buttato tantissimo, ne hanno buttati tantissimo, e quindi ci sono tanti soldi in un mondo dove i rendimenti sono tutti bassi, gli investitori non sanno veramente più dove metterli, e quindi hanno scelto ultimamente, negli ultimi mesi, una cosa che è durata già dal 2013, e l'Europa, soprattutto il Sud Europa, che era stato in precedenza molto penalizzato, come meta dove scommettere. Ebbene, adesso i rendimenti dei titoli di Stato sono scesi tantissimo, le borse sono salite tantissimo, e a questo punto è ovvio che l'Europa deve, e soprattutto il Sud dell'Europa, dimostrare che effettivamente il giro di boa c'è stato. Gli investitori, da come sentivo io sul mercato, davano un po' come punto di svolta possibile a settembre, cioè dopo l'estate. Cioè, il senso era, se a settembre non vediamo veramente dei risultati concreti, anche minimi, di ripresa, di svolta, allora potremmo cambiare le nostre strategie. E i risultati in realtà stanno arrivando già in precedenza, cioè già adesso in agosto, in estate. Il PIL di oggi dell'Italia è molto sorprendente, sotto le aspettative, ma non solo, anche il dato sulla produzione industriale tedesca è negativo. Questo dimostra che non è solo l'Italia ad avere un problema, è l'intera Europa ad avere un problema. Il dato sulla produzione industriale tedesca è sceso anche perché l'Europa non sta crescendo, tranne piccoli focolai, comunque certo. L'Europa è piatta, o comunque non ha crescita economica. In un posto dove ci sono alti debiti, soprattutto in Italia, e altissima disoccupazione, consumi in calo, un rischio soprattutto di deflazione o comunque di bassissima inflazione, è ovvio che gli investitori, dopo aver comprato tanto, iniziano a un attimino a rivedere le loro strategie. Certo. Goldman Sachs non ha detto vendete. Non ha detto noi venderemo, ha portato su giudizio a neutrale, cioè se prima consigliava di comprare soprattutto l'Italia, adesso dice restiamo neutrali, vediamo cosa succede. Quindi diciamo ci danno ancora un periodo di credito per vedere cosa succede. Quanto sarà lungo questo periodo di credito? Perché non credo che come stanno andando le cose, appunto i miracoli in Italia li possiamo compiere. Secondo me dipende in parte dall'Italia, in parte no. Dipende uno da cosa farà la Banca Centrale Europea, perché le politiche monetarie sono determinanti nel determinare i flussi di capitali. Quindi mi stai dicendo che magari in queste ore Draghi sta mettendo a punto una comunicazione sulle strategie dei prossimi mesi chiara? Beh, ma forse non solo una comunicazione, e tanti economisti sostengono, ma è naturale che sia così, che se la Banca Centrale Europea vede che l'economia continua a peggiorare, che l'inflazione va sempre più giù, è ovvio che deve fare delle politiche monetarie più espansive, fa parte del suo compito riportare quantomeno l'inflazione verso il 2%, per cui tanti iniziano a pensare, scommettono sempre più sul fatto che la Banca Centrale potrebbe fare qualcosa di più aggressivo, per esempio addirittura un quantitative easing, cioè stampare moneta proprio. È un'eventualità, diciamo, da ultima spiaggia, soprattutto per la mentalità molto stretta della Banca Centrale Europea, però è qualcosa che potrebbe più che accadere. Altro perché non può farlo, soprattutto per i paesi in difficoltà, non può sbilanciare il suo atteggiamento nei confronti di un paese specifico, diciamo, se fa questi acquisti di titoli di Stato, di obbligazioni, deve farle per tutti e in maniera appunto proporzionata rispetto al peso delle economie. Esattamente, paradossalmente se comprasse titoli di Stato per immettere liquidità nuova sul mercato, il paese che ne beneficerebbe di più sarebbe la Germania, perché essendo il paese più grosso comprerebbe più Bund rispetto ai BTP italiani. Però la logica del quantitative easing, cioè dello stampare moneta, non è aiutare l'Italia, la Spagna o un altro paese. La logica è iniettare sul mercato liquidità e tenere bassi i tassi di interesse di mercato, in modo da cercare di stimolare la ripresa, che è quello che ha fatto la Federal Reserve in America e la Banca del Giappone o anche la Banca d'Inghilterra. Anche perché, se pure ritorniamo indietro al famoso discorso a Londra in cui disse farò tutto quello che è necessario per salvare l'Eurozona, poi alla fine le cartucce prima o poi terminano. Questa secondo te potrebbe essere l'ultima spiaggia per un sostegno all'economia? Quante armi ha a disposizione Draghi? Perché ha portato a zero, ce lo raccontavi ieri, i tassi di interesse, anzi sotto zero, le banche pagano per depositare depositare il loro denaro presso la Banca Centrale Europea. I tassi di interesse di riferimento europei sono praticamente vicini allo zero. Che cos'altro c'è da fare? Beh, L'LTRO? L'LTRO adesso fa il TLTRO, esatto, che è una sigla un po' incomprensibile, che significa la Banca Centrale erogherà dei soldi, dei prestiti alle banche europee, col vincolo che le banche europee eroghino, diciamo girino questi soldi all'economia reale, quindi non investano sui mercati finanziari ma diano i soldi alle imprese, anche se poi è tutto da verificare se questo accadrà. La bomba, diciamo la politica monetaria più potente da questo punto di vista è appunto il quantitative easing, cioè stampare effettivamente moneta e comprare titoli, tenere bassissimi tassi, anche quelli a lunga scadenza, e in questo modo si tengono i bassi tassi sia degli stati ma anche poi per le imprese, per i mutui e così via, perché tutta la curva dei tassi inizia a scendere anche a lunghe scadenze, iniettando liquidità sul mercato, che è quello che hanno fatto le altre banche centrali. Per cui una cartuccia ce l'ha ancora, certo, la banca centrale. Bisogna vedere se la giocherà, quando la giocherà, se non sarà troppo tardi, e poi che effetto avrà. Esatto, questa liquidità dove andrà a finire? Perché dove è andata a finire? La liquidità va sempre a finire sui mercati finanziari, perché lì va, lì resta. La logica, diciamo, che sta dietro questa politica è innanzitutto tenere bassi i tassi di interesse e quindi favorire anche il credito, e la logica è poi che se la liquidità va ad aiutare i mercati finanziari, aiuta le banche, quindi aiuta le imprese che possono quotarsi in borsa, e quindi si crea, diciamo, la speranza di creare un circolo virtuoso che poi faccia ripartire anche la ripresa economica. In realtà si è visto anche negli Stati Uniti che questo tipo di politica fa sì ripartire l'economia, ma la fa ripartire anche con gravi squilibri, per esempio reddituali tra la popolazione, la forbice tra ricchi e poveri negli Stati Uniti si sta allargando tantissimo, quindi ci sono tantissimi effetti collaterali, non da ultimo quello che si possono creare bolle speculative sui mercati. Temo che purtroppo un po' questo segnale lo stiamo cominciando a vedere anche in Italia, magari potrebbe essere anche oggetto di un altro commento nei prossimi giorni a Focus Economia. Chiederei con gentilezza a Fabio Cantadori quanti minuti ancora ho. Ecco, là vedo una mano che sventola, abbiamo ancora un paio di minuti. C'è un altro segnalino sui mercati in questi giorni interessante, che potrebbe essere, non so che tipo di presagio. L'oro sta ricominciando a salire, hai fatto caso? Secondo te è una risalita significativa che preclude a qualcos'altro? Perché là, quando ci si comincia a rifugiare nell'oro, e allora eccoci qua che siamo alla vigilia forse di qualcosa di più interessante, non positivamente sugli altri mercati. Allora, sui mercati in questo periodo ci sono una serie di, diciamo, fantasmi tra virgolette, soprattutto sul fronte geopolitico. La crisi in Ucraina, che poi tra l'altro avrà possibilmente, è possibile che abbia degli effetti economici, l'abbiamo anche detto prima con l'economista, importanti, infatti, sì, sulla stessa Europa, quindi diciamo piove sul bagnato, ma anche lo stesso conflitto medio orientale, anche la stessa crisi finanziaria dell'Argentina, anche se molto particolare, molto tecnica, tutte queste cose creano un po' di incertezza e quindi hanno creato nell'ultimo periodo un certo diciamo voglia degli investitori di andarsi a rifugiare su beni rifugio, per cui un pochino ci può essere questa cosa, anche se secondo me è ancora presto per parlare di volo verso le beni rifugio e così via. Cioè, $2,000 l'once, insomma. Siamo ancora in una fase esuberante dei mercati. Allora, supportami in questa mia battaglia. Domani un rimbalzino tecnico lo vediamo. Secondo te sbilanciati un po'. Niente da fare, guarda, il silenzio è d'oro in questi casi. Mi come guardano loro tutti. Ma proviamoci ad essere un po' positivi. Secondo me qualcuno ricompra a piene mani, qualche gestore professionale naturalmente. Suggerisco ai piccoli risparmiatori di non avventurarsi invece in borsa in giornate come questa. No, queste sono questa giornate, una buona considerazione. Queste sono giornate per, ecco, professionisti, esatto, e anche loro si scottano. Se potete, state al mare a scottarvi invece di sole. Grazie a Moria Longo per essere stato grazie con noi. Voi. Grazie a Mauro Del Corno per l'aiuto in redazione. Fabio Cantadori in assistenza tecnica. Io bisso anche domani, ci sentiamo domani mattina alle 11 con Cuore Denari. Vi ho già anticipato che parleremo della incredibile situazione negli aeroporti di Roma e la perdita di tutti i bagagli per appunto la protesta dei dipendenti all'Italia. Domani.